Fra, vorrei sapere se guardando oggi dentro il cuore si è fatto integro di pure ore. Oh, dentro risiedono finte chimere, sere chiuse nere, un baratro poi la luce. In amore vince chi fugge, irraggiungibile il cuore, più fuggi ora più stringe, lacrima nel vento tinge, scia nel passato lasciato dietro mentre rugge, e così sia. Vi racconterò dei miei anni migliori, quelli che rimangono gli albori. Avevo una vita perfetta, un perfetto boy dall'aria spensierata, alata la mia pelle baciata da una fortuna, non di certo di me ticcata. Un'infanzia stupenda, immacolata. Mamma e papà e il nostro Natale, regali sì quando iniziavano a poterci permettere. Amare educato questo m'avevano insegnato. Passavo con amici ore spensierate, gioia e gialla in bocca sbuffate. Buh, buh, come un leone dal naso alla bocca. Il mio migliore amico e amica. Ho sempre cercato un bacio, mica la lotta, se non la lotta per la vita. Poi nel 95 la matita, un patto strano sotto la luna di una stupenda notte stellata, d'una mossa dell'anima che ora sol digiuna. Il tempo nel vento di una profezia d'amor profano, Prada, Polo, Ralph, Gucci, Dior e Nike, vestito bene assai. Il ragazzo d'oro col pallone tipo Le Roi Michel Platini, e il bello che valevo 4 diamanti e 4 platini. Sotto il 7 Roby Baggio dribbling, ricordo le corse spensierate all'uni poi mosse, ricordo un bagliore poi risse su risse. Anche una vita perfetta può essere infranta ad un tratto, rotta. Ma se un diamante ha brillato, se ogni sera ho sperato di tornare indietro d'un tratto, negli anni più belli il ragazzo d'oro ritornato, solo con meno piume, ma ora vorrebbe essere sempre più amato. Rimosso il male passato, ora voglio i brindisi, perché l'ori è tornato, quello di un tempo pieno d'orgoglio e talento. Su questa la traccia non vi è lamento, ma solo una gioia di aver ritrovato me stesso.